è bella libertà come tu mai, partendoti da me mostrato quale era il mio stato quando il primo strale fece la piaga ond'io non guerro mai. Gli occhi invaghiro allor si de lor guai, che il frende la ragione ivi non vale, perché hanno a schifo ogni opera mortale, lasso così da prima gli avvezzai. Né mi legge ascoltar chi non ragiona della mia morte e solo del suo nome, o impiendo l'aere che si dolce suona. Amor in altra parte non mi sprona, né piesano altra via né le mancoma. Lodar si possa in carte altra persona, lodar si possa in carte. Come tu mai, partendoti da me mostrato quale era il mio stato quando il primo strale fece la piaga ond'io non guerro mai. Gli occhi vaghiro allor si de lor guai, che il frende la ragione ivi non vale, perché hanno a schifo ogni opera mortale, lasso così da prima li avvezzai.